Bibbia Martini, primo libro dei Re Sette Palazzo di Salomone, Casa del Bosco del Libano, e della moglie di lui, suppelletti livarie preziosissime del Tempio. E fabbricò Salomone, e compì interamente in 13 anni la sua propria casa. E fabbricò ancora la casa del Bosco dell'Ubano, di 100 cubiti in lunghezza, e di 50 cubiti di larghezza, e di 30 cubiti di altezza, ed erambi 4 corridori tra i colonnati di cedro, perocché egli aveva fatto ridurre a colonne le piante di cedro. E rivestì di tavole di cedro tutto il soffitto sostenuto da 45 colonne. E ogni filare aveva 15 colonne, collocate l'una di rimpetto all'altra, e che si guardavano l'una l'altra, ed eran tutte in egual distanza tra di loro, e sopra le colonne i rambi delle travi quadrangolari tutte di egual grossezza. E fece un portico di colonne avente 50 cubiti di lunghezza, e 30 cubiti di larghezza, e un altro portico in faccia al portico più grande, con colonne, e architravi sopra le colonne. Fece ancora il portico del trono, e lo vestì di legno di cedro dal pavimento fino alla sommità. E la tribuna, dove si risiedeva per render ragione, era nel mezzo del portico, ed era di simil lavoro. Fece di più Salomone per la figliuola di Faraone una casa di lavoro simile a quella del portico. Tutte dalle fondamenta sino alla cima delle muraglie, e al di fuori sino all'atrio maggiore erano di pietre di molto pregio, le quali tanto dalla parte interiore, come dall'esteriore erano state segate in pari forma, e misura. E le fondamenta erano di pietre di molto pregio, di pietre grandi di 10, ovvero di 8 cubiti. E al di sopra erano pietre di molto pregio tagliate ad egual misura, e parimente coperte di cedro. E l'atrio maggiore rotondo avea 3 ordini di pietre tagliate, e un ordine di cedro lavorato, e così pure era dell'atrio interiore della casa del Signore, e del portico di essa casa. E il re Salomone fece ancora venir da Tiro Iram, che era figliuolo di una donna vedova della tribù di Neftali, di padre della città di Tiro. Ed era un lavoratore di bronzi pieno di saggezza, di capacità, e d'industria per fare qualunque opera in bronzo. Ed egli essendo venuto a trovare il re Salomone, fece tutto il lavoro, che i volle. Ed egli fece 2 colonne di bronzo, ogni colonna alta 18 cubiti, e una corda di 12 cubiti abbracciava ciascuna colonna. Fece ancora i 2 capitelli di getto in bronzo sulla cima delle colonne, un capitello avea 5 cubiti di altezza, e l'altro capitello 5 cubiti di altezza, ed eravi come una rete, e una catena con teste insieme tra di loro con mirabile artificio. L'uno e l'altro capitello delle colonne era di getto, 7 filari di maglie erano nell'uno, e 7 filari di maglie nell'altro capitello. E per compimento delle colonne fece 2 ordini di maglie, che circondavano, e coprivano i capitelli, le quali posavano in cima dei meligranati, fece la stessa cosa al secondo, e al primo capitello. I capitelli, che erano in cima delle colonne nel portico, erano fatti a maniera di giglio, ed erano di 4 cubiti. E di più erambi altri capitelli in cima alle colonne al di sopra della rete proporzionati alla misura della colonna, e intorno al secondo capitello vi erano 200 meligranati posti per ordine, e le 2 colonne le collocò nel portico del Tempio, e quando ebbe alzata la colonna destra, te diede il nome di Jachin, ed eretta parimente la seconda, le pose nome Buz. E sulle cime delle colonne pose quel lavoro fatto a maniera di giglio, e fu compita l'opera delle colonne. Fece anche di getto una gran conca tutta rotonda, di 10 cubiti da un orlo all'altro. E l'avea 5 cubiti di profondità, e una corda di 30 cubiti cingeva tutto il suo giro. E sotto all'orlo un lavoro di scultura, che giravagli attorno per 10 cubiti, e cingeva la conca. I 2 ordini di sculture di getto erano di rilievo. e posava sopra 12 bovi, dei quali 3 guardavano a settentrione, e 3 ad occidente, e 3 a mezzodì, e 3 ad oriente, e sopra di essi stava la conca, e tutte le parti deretane di quelli restavan sotto nascose. Questo lavacro avea 3 uans di grossezza, e il suo orlo era come l'orlo di una coppa, e come la foglia di un giglio sbocciato, e i capiva 2000 bati. E fece 10 basi di bronzo, ognuna delle quali era lunga 4 cubiti, e larga 4 cubiti, e alta 3 cubiti. E il lavoro delle basi era di più pezzi, e dove questi si incastravano insieme erano dei lavori di scultura. E tra piccole corone, e lacci, e ramviglioni, e bovi, e cherubini, e parimente sopra le commessure, e sotto ai lioni, e ai bovi erano quasi delle corde di bronzo pendenti. E ogni base avea 4 ruote con mozzi di bronzo, e a 4 angoli erano sotto il lavacro certe quasi spallette di getto rivolte l'una verso l'altra. Eravi anche in cima alle base interiormente la cavità per ricevere il lavatoio, e quello, che ne appariva al di fuori per un cubito, era tutto rotondo, e avea ancora un cubito, e mezzo, e agli angoli delle colonne erano varie sculture, e lo spazio tra le colonne era quadrato, e non rotondo. E le 4 ruote, che erano ai 4 angoli della base, si corrispondevano l'una all'altra sotto la base, e ogni ruota avea un cubito, e mezzo di altezza. E le ruote erano come quelle, che soglion farsi ai cocchi, con loro assi, e raggi, e cerchi, e mozzi, il tutto di getto. Anzi anche le 4 spallette ai 4 angoli di ciascheduna base erano congiunte con essa, e di un sol getto con la base. E in cima alla base era un lavoro rotondo alto mezzo cubito, e fatto in guisa da potervi metter sopra il lavatoio, e avea le sue cisellature, e sculture varie, che si staccavan da esso. E sopra quelle tavole, che eran di bronzo, e ai loro angoli scolpì dei cherubini, e dei lioni, e delle palme, che pareano non iscolpiti, ma posti tutto all'intorno, come una figura uomo, che sta in piedi. In tal guisa fece egli le 10 basi di getto, della stessa fattura, e grandezza, e con simili sculture. Fece ancora i 10 lavatoi di bronzo, ogni lavatoio capiva 40 bati, ed era di 4 cubiti, e posò un vaso sopra ciascuna delle 10 basi. E collocò le 10 basi, 5 dal destro lato del tempio, e 5 dal lato sinistro, e la gran conca dalla parte del tempio tra levante, e mezzodì. Fece ancora Iram delle pignatte, e delle caldaie, e dei bacini, e compì tutto quello, che il re Salomone gli ordinò per il tempio del Signore. Le 2 colonne, e i 2 cordui sopra i capitelli delle colonne, e le 2 reti, che coprivano i 2 cordoni, che erano sulle cime delle colonne. E 400 melegranate nelle 2 reti, 2 ordini di melegranate per ogni rete, la quale copriva i cordoni dei capitelli, che erano alle cime delle colonne, e le 10 basi, e le 10 conche sopra le basi, e la gran conca, e i 12 bovi sotto la conca, e le pignatte, e le caldaie, e i bacini, tutti i vasi, che Iram fece al re Salomone per servigio della casa del Signore, erano di bronzo fino. Il re li fece fondere in una pianura del Giordano, in un terreno argilloso, tra Socot e Sartan. E Salomone ripose tutti questi vasi, e attesa la eccedente loro moltitudine fu indicibil peso di bronzo. Fece ancor Salomone tutto quello, che dovea servire alla casa del Signore, l'altare d'oro, e la mensa d'oro, per porvi sopra i pani della proposizione. E i candelabri d'oro, 5 a destra, e 5 a sinistra dinanzi all'oracolo di fino oro, e come fiori di giglio, e le lucerne d'oro sopra. E le idrie, e le forchette, e le coppe, e i mortai, e i turiboli d'oro finissimo, e i cardini delle porte della casa interiore del Santo dei Santi, e delle porte del Tempio erano d'oro. E Salomone compì tutti i lavori fatti da lui per la casa del Signore, e vi portò l'argento, e l'oro, e i vasi consacrati da Davide suo padre, e li ripose nel tesoro della casa del Signore. Note, 7,1, fabbricò in 13 anni la sua casa. Non è da meravigliarsi che quasi il doppio di tempo impiegasse nella fabbrica della sua reggia, di quello che aveva impiegato nel Tempio, perocché non solamente riguardo al Tempio trovo Salomone molti materiali preparati da Davide, ma di più ad accelerarne la fabbrica era stimolato sì dalla propria devozione, e sì da quella di tutto il popolo. 7,2. La casa del bosco del Libano. Così ella fu chiamata o per ragione delle colonne di cedro tratte dal Libano, ovvero perché avesse contigua una ombrosa selva simile a quella del Libano. Il Caldeo favorisce questa seconda sposizione, supponendo che questa casa fosse destinata a prendere il fresco negli estivi calori. Ella però secondo molti interpreti non era una fabbrica distinta, né separata dalla prima, ma faceva parte della reggia di Salomone. Quattro corridori tra colonnati di cedro. Posti per lo lungo i tre ordini di colonne, che erano di mezzo tra le pareti della casa, ne venivano necessariamente nel piano interiore quattro corridori, i quali erano lunghi quanto era la lunghezza della casa. 7,6-7. E fece un portico di colonne e questo colonnato era davanti alla reggia. Nella Vulgata abbiamo chiaramente distinti tre portici, ovvero colonnati. Il colonnato del trono doveva essere separato, e in qualche distanza dalla reggia. 7,8. Fece per la figliola di Faraone una casa. Il gineceo, appartamento distinto per questa principessa, dove ella abitava con le sue donne. In tutto l'Oriente le donne avevano abitazione distinta da quella degli uomini. Vedi gennaio 24. XXVI, e C7,12, l'atrio maggiore rotondo e l'atrio maggiore egli è quello descritto. V2. 3, 5. 6. Egli è qui nominato rotondo non perché veramente fosse di figura circolare, ma perché tutto all'intorno dai quattro lati era cinto di mura fatte, come è qui detto, di tre ordini di pietre e un ordine di legname. Vedi capitolo 6, 36. 7,14. Figliuolo di una donna della tribù di Neftali. Nel Paralipomeni. Lib 2, capitolo 2, 14. La madre di Iram dicesi, che era della tribù di Dan. Si può intendere che ella fosse della tribù di Neftali per sua origine, e della tribù di Dan per ragion del marito, il quale è detto della città di Tiro, perché era ivi domiciliato da molto tempo. 7,17-18. Ed eravi come una rete, e queste fasce a maniera di rete lasciavano vedere gli ornamenti dei capitelli, i quali erano sparsi di gigli ed altri fiori, e frutti, come i meligranati, i quali erano a due ordini, ed erano in numero di 200 per colonna, 100 per ciascun ordine, come si dice, V. 42, 7,19. I capitelli, che erano in cima delle colonne e ci questo versetto è uno dei più oscuri di tutto questo capitolo. Ecco quello, che per quanto a me sembra può dirsi di più probabile. In ogni capitello si distinguono tre parti, la prima, che era immediatamente alla cima del fusto delle colonne, ed è chiamata epistilio, 2. Par 4, 12. La seconda, che posava sull'epistilio, dove era quella rete e i melogranati, la terza parte è quella, che Vitruvio chiama coronide. Del terzo capitello, ossia della terza parte di esso, si parla V20. E della seconda si è parlato nel versetto 16. Qui si parla dell'epistilio da mettersi sopra ognuna delle colonne destinate per l'atrio del Tempio, e si dice che questo rappresentava la figura di un giglio, ed era di 4 cubiti, lo che intendesi non dell'altezza, ma della sua larghezza, con la quale avanzava la fuori dalla colonna per lo spazio già detto. 7,21. Le collocò nel portico del Tempio. Nel vestibolo davanti al Santo, una da un lato della porta, l'altra dall'altro lato. Le diede il nome di Yakin. Le pose nome Butz. Yakin, Dio stabilirà, Butz, in lui è fortezza. Con questi nomi Salomone volle indicare che era opera di Dio l'erezione del Tempio additato in certo modo da quelle colonne, e che Dio gli dava stabilità. Tutto questo però non si avverò pienamente, se non riguardo a quel mistico Tempio, di cui fu figura il Tempio materiale di Salomone. La Chiesa di Gesù Cristo è quel Tempio di Dio tutto non per mano d'uomo, ma lavorato dal sovrano architetto e creatore di tutte le cose, il quale tal fermezza e stabilità conferì a questa sua casa, che a dispetto di tutti gli sforzi dei suoi nemici e la sussisterà fino alla fine, dei secoli. 7,22. E sulle cime delle colonne pose i. Le colonne adunque, o piuttosto i capitelli di esse finivano in un giglio. 7,23. Di 10 cubiti da un orlo all'altro. Questo gran vaso detto comunemente per la sua ampiezza il mare, era di bronzo, e avea 10 cubiti di diametro da un orlo all'altro, e circa 30 cubiti di circonferenza. Dico circa 30, perché il diametro sta alla circonferenza come 7. A 22. Ma nella scrittura non si fa caso di sì piccola differenza. Era rotondo, e avea 5 cubiti di profondità. Serviva ad uso dei sacerdoti, i quali con l'acqua, che da esso faceasi uscire, si lavavano le mani e i piedi, onde è detto l'uter, cioè lavatoio, V26. Posava sopra 12 buoi di bronzo e portava scolpite delle figure di cherubini, di lioni, di bovi e di palme. Il suo sito era nell'atrio dei sacerdoti presso all'altare degli olocausti. 7,24. E sotto all'orlo, i due ordini di scultura erano dal fondo della conca fin dove ella arrivava alla larghezza di 10 cubiti, restringendosi il vaso, quanto più si accostava al suo fondo. Gli ornamenti di questa parte del vaso erano di un sol getto col vaso stesso. 7,25. Posava sopra 12 bovi. Vari interpreti suppongono che dalle bocche di questi bovi si facesse uscire l'acqua per mezzo delle cannelle che vi erano apposte. Questi bovi si piegavano dalle parti di dietro, quasi fossero oppressi dal peso che avevano addosso. 7,26. 3 uans di grossezza. La quarta parte di un piede romano. Capiva 2000 bati. Il bato era una misura delle cose liquide uguale all'efi e alla metreta e conteneva 80 libbre romane, onde i 2000 bati l'hanno 160.000 libbre romane. Ne paralipomeni invece di 2000 leggonsi 3000 bati, ma il testo stesso pare, che accenni, che fino a quel segno si stendeva la capacità del vaso, quando si fosse empiuto fino all'orlo, laddove qui è notata la quantità di acqua che vi si teneva ordinariamente. 7,27. E fece 10 basi e per 10 altre conche minori ad uso del Tempio, e queste conche erano mobili, posando le basi sopra ruote di bronzo. Vedi a Paral. 4,6. La conca grande stava in mezzo a queste 10, quella serviva per i soli sacerdoti, i quali con l'acqua che ne facevano uscire, si lavavano, come si è detto, le altre erano fatte per lavare nell'acqua di esse le parti delle vittime prima di imporle sull'altare. 7,30. Sotto il lavacro certe quasi spallette e ci sopra le basi erano questa spallette, le quali tenevano ferma la conca incastrata per di più nella cavità che ravi nella base. Alcuni credono che fossero quattro cherubini, i quali sulle loro spalle tenevano quasi la conca. 7,31. E ravi anche in cima alla base. La cavità è it. La parte superiore della base era concava, dovendo in essa entrare il vaso, ed era rotonda, e avea di diametro un cubito, e un cubito e mezzo di profondità, tale sembra, che possa essere, il senso di questo luogo secondo la Vulgata. E agli angoli delle colonne e ci il piano delle basi, che era quadrato, avea a ogni angolo la sua piccola colonna arricchita di ornati diversi. 7,32. Le quattro ruote si corrispondevano sotto la base. Le ruote aveano il loro asse sotto la base, un asse serviva i due ruote, così una ruota corrispondeva all'altra. 7,35. E in cima alla base si parla della stessa cavità, la quale avea un cubito e mezzo di profondità, come si è detto, ma per un mezzo cubito si alzava un cerchio ornato anch'esso di vari lavori, che dal medesimo si staccavano. 7,36. E sopra quelle tavole, e ci sopra la tavole componenti la base erano le sculture, che sono qui descritte. Vedi V28. 29. Come una figura d'uomo che sia in piedi. Quelle figure di cherubini, lioni, e ci, erano di rilievo, e al naturale come una figura d'uomo, che sta ritto. Altri riferiscono la similitudine a cherubini, come se dicesse, che questi rappresentavano un uomo, che sta in piedi. 7,38. Ed era di 4 cubiti. Probabilmente i 4 cubiti erano la misura dell'altezza d'ogni lavatoio, benché alcuni li credano misura del diametro. 7,39. 5 dal destro lato del tempio, e 5 dal lato sinistro. Nelle scritture il lato destro indica per lo più il mezzodì, il sinistro il settentrione. 5 pertanto dei lavatoi furono posti sopra le loro basi da mezzodì. 5 da settentrione nell'atrio dei sacerdoti tra il tempio e l'altare degli olocausti. Tra levante e mezzodì. La conca grande, ossia il mare di bronzo, era dalla parte di mezzodì verso la parte orientale dell'atrio dei sacerdoti, affinché questi in entrando avessero il comodo di lavarsi. 7,46. Tra Sokot e Sartan. Sokot era all'oriente del Giordano, Sartan a occidente vicino a Betsan. Così la maggior parte degli interpreti. 7,48. L'altare d'oro e la mensa. Dovette parere a Salomone non abbastanza ricco l'altare e la mensa, che aveva fatto Mosè, quindi fece nuovo altare e nuova mensa, e il vecchio altare e la mensa ripose nel tesoro del tempio. Eccettuata l'arca e il propiziatorio coi cherubini, Salomone fece tutto nuovo nel tempio. 7,49. E i candelabri d'oro, e invece del solo candelabro di oro fatto da Mosè, Salomone ne pose 10 fatti però a 7,51. Vi portò l'argento e l'oro e i vasi consacrati da Davide. Non volle Salomone servirsi per uso proprio, né per alcun fine profano, dell'oro e dell'argento, che avanzò della massa destinata dal padre al servizio del tempio.